Gabe olo dosi pata tahera, tata rohani mamarliran, buru ni raja na di jabua. Arong dosara, tarahira sahib, di boru hita. Semangat pia doang goroha mira boru jam.